1, 2, 3. Adesso tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Cari ascoltatori, è venerdì di Pasqua, noi siamo qui in diretta, sono le 7:17 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Tra l'altro oggi andremo in diretta fino alle 9:30 con 24 mattino. Poi, come ben sapete, come gli amici della segreteria telefonica mi hanno gentilmente mi ha detto di fare, dandomi praticamente un calcio nel sedere, andrò in ferie per una settimana per somma gioia di gufi e debosciati. E poi, però, il programma continua, eh? Da martedì prossimo, Pasquetta non siamo in onda, ma da martedì prossimo ci saranno Migliorati. E poi io tornerò domenica, lunedì, che giorno è? 17, 18, 12, 13. 13, lunedì 13. Grazie a Peter Bescapè per il suggerimento richiesto. Allora, siamo qui, di che parleremo? Oggi parleremo di tanti argomenti, parleremo certamente delle stragi in Kenya, dalle 9 avremo padre Giulio Albanese, avremo il vescovo di Tripoli per capire anche cosa vuol dire essere cristiani in Libia, parliamo di essere cristiani nei giorni importanti della Pasqua e purtroppo di questa tragedia avvenuta in Kenya. Parleremo anche con Luigi Di Maio, vicepresidente della Camera, alle 8:40 e dunque di politica, parleremo anche di fisica. Non è che mi sono ammattito, parleremo di fisica con un fisico, il professor Carlo Rovelli, che ha scritto un libro sulla fisica, un caso editoriale incredibile, 160.000 copie del libro già vendute. Sarà con noi alle 8:15. Ora andiamo a leggere i giornali. È venerdì 3 aprile. I titoli, il Sole 24 Ore è uno di quei titoli che vi metterà di buon umore in vista della Pasqua. Sale la spesa pubblica in un trimestre più 2,6%. La pressione fiscale cresce al 43,5% con un picco del 50,3% a fine anno. E buona Pasqua, ovviamente. Il Corriere della Sera invece, come altri quotidiani, un accordo c'è, svolta sull'Iran. Per Repubblica, accordo con l'Iran, Obama, il mondo ora sarà più sicuro. La Stampa, intesa con l'Iran, non avrà l'atomica. Il Messaggero, nucleare storico sì dell'Iran. La strage in Kenya invece, i cristiani colpiti, per Avvenire nuova strage mirata. Il giornale titola in maniera molto forte Olocausto cristiano. E poi la politica, il Fatto Quotidiano, la coop dello scandalo finanziava anche Renzi. Vedremo anche altri titoli. Prima un'altra notizia che riguarda l'Expo e che conquista le prime pagine dei giornali ed è questa: il padiglione Italia e i costi. Il padiglione Italia di Expo, costi saliti da 63 a 92 milioni. Leggo da pagina 23 del Corriere della Sera, Elisabetta Soglio, due numeri. La cifra prevista per realizzare il padiglione Italia, che comprende il Palazzo, la Leica Arena, gli edifici del Cardo, la Via delle Regioni, delle Eccellenze d'Italia, era 63 milioni di euro. Il costo finale sarà 92 milioni di euro. E come ha spiegato il commissario Diana Bracco, tutto è stato possibile grazie all'arrivo di nuovi sponsor. I circa 30 milioni di delta, cioè di differenza, comprendono sia interventi ulteriori come il secondo piano delle palazzine che avrebbe dovuto essere un piano unico, ma anche l'accelerazione dei lavori che si è resa necessaria per recuperare i ritardi, evitare un flop all'inaugurazione di Expo il 1 maggio, e cioè tra 28 giorni. Anche Repubblica dedica una pagina a questo Expo, i costi impazziti del padiglione Italia, spesa lievitata del 50%, sale da 63 a 92 milioni. L'organizzazione dice la differenza però sarà coperta da sponsor. Per il commissario Sala nessuno sforamento dei tempi, il 30 aprile sarà tutto finito. E dice se faremo una brutta figura sarà tutta colpa mia. Ripeto, però da qui ai prossimi 28 giorni se ne leggeranno tante, poi ovviamente si alzerà il sipario e li scopriremo. Dal 1 maggio, mentre mi ha molto colpito questa notizia che è stata data secondo me giustamente con tanta evidenza sul Corriere della Sera e riguarda un concorso per infermiere all'ospedale Niguarda di Milano. Paolo Di Stefano racconta tutto ciò a pagina 25. Si cercano 25 posti da infermieri per concorso. Sapete quante persone si sono presentate per 25 posti da infermieri? 13.000 persone. C'è questa foto impressionante, gli esami, i concorsi sono stati fatti al Politecnico di Milano, sono state prese più aule perché si sono presentate sempre più persone. Immaginate un paesotto di medie dimensioni, un paesotto di 13.000 abitanti, Avigliana nel Torinese, Turi in provincia di Bari. Ecco, immaginate che tutto il paese si svuoti per trasferirsi in massa a Milano, disponendosi in coda, occupando piazzali, scale, corridoi del Politecnico, una fiumana che tra ieri e oggi si è presentata al padiglione Trifoglio in via Bonardi sotto il sole battente con la remota speranza di conquistare uno dei 25 posti da infermiere messi a concorso a Niguarda. L'affluenza era tale che per accogliere tutti sono state affittate 6 aule del Politecnico, dove gli aspiranti infermieri sarebbero stati divisi in 4 turni da 1.600 persone l'uno, per accedere in ordine alfabetico al test a risposta multipla sugli esami del sangue e delle urine, sui valori del colesterolo, trigliceridi, il consenso informato, il codice deontologico, eccetera, eccetera. Per il Niguarda 30.000 euro di spese solo in affitto di spazi, vigilanza, 15.000 fotocopie, senza dimenticare le ambulanze se mai qualcuno nella ressa avesse un malore. Insomma, tutto per un concorso pubblico per 25 posti da infermiere. Succede anche questo nell'Italia che cerca lavoro. Succede anche che cosa? Vabbè, questa è una notizia che ci butta già nella politica ed è l'apertura di Libero, l'ho tralasciata perché la leggo adesso, con l'articolo di Franco Bechis. Quanto vola e mangia Renzi? Questo è il titolo. È un'analisi di Franco Bechis, che è il vice direttore di Libero, delle spese fatte dal governo su cibi e bevande in aereo, negli aerei di Stato. In 7 mesi, da luglio 2014 a gennaio 2015, Renzi e i suoi ministri hanno utilizzato 103 volte i voli di Stato. A bordo sono saliti anche parecchi loro collaboratori, a viaggiare in tutto sono stati 960, con un picco a novembre di 176 persone. Hanno volato molto con la flotta a disposizione di Palazzo Chigi, che sono 10 aerei e 2 elicotteri. Soprattutto, scrive Libero, hanno banchettato come raramente accaduto. Pensate che per il catering servito a bordo sono stati spesi 86.000 euro solo per i pasti principali, più 5.202 euro per gli snack serviti lontano dai pasti, 2.679 euro per quelli consumati nella saletta riservata dell'aeroporto di Ciampino, in tutto 93.887,95 euro. È una media di spesa alimentare per passeggero di 97,79 euro. Quanto costano poi in media i pasti? Questa è la cifra che Libero sbatte nel titolo. Sui voli di Renzi, pranzi da 170 euro, questa è la media, scrive Libero, sono medie da pranzo di chef pluristellato. In totale, ripeto, da luglio 2014 a gennaio 2015 spesi 90.000 euro solo per i pasti principali. Ovviamente sono tutti dati di Palazzo Chigi che Franco Bechis ha elaborato per arrivare a dare questo tipo di articolo in prima pagina. Intanto due notizie che riguardano i dipendenti pubblici. Una, lo shopping in orario di lavoro, è un grande classico per alcuni, però questa volta sono stati arrestati 4 dipendenti della provincia. Come la provincia? Ah, esiste allora, esistono le province. La provincia di Foggia, esistono sì le province. Anzi, si chiude oggi la settimana numero 100, settimana anche questa decisiva per la riforma elettorale e l'abolizione delle province. Non è stata decisivissima, ma la 101esima è alle porte. Arrestati, racconta Giordano Tedoldi su Libero, 4 fannulloni così definiti, c'era una veterana che timbrava per tutti, andavano a spasso a fare spese, la polizia li ha pedinati, stavano fuori in media un terzo della giornata lavorativa e sono stati arrestati. Verranno licenziati? Ma chissà, lo scopriremo. Ma a proposito di dipendenti, questo è l'articolo che vince il premio La Mani sul Volante. L'articolo che ci fa impazzare di questa giornata riguarda sempre l'annosa questione passata dei vigili urbani in sciopero a Roma. Sono stati indagati altri 11 medici per i falsi certificati ai vigili nello scorso Capodanno. I dottori sono crollati davanti ai carabinieri, come racconta Andrea Valle su Libero a pagina 12. Il numero dei medici coinvolti nell'inchiesta quindi sale a 11. Hanno dichiarato davanti agli inquirenti di avere firmato certificati senza avere realmente visitato i vigili urbani, pazienti ai quali hanno acclarato la loro inabilità al servizio, e dunque anche per questi dottori scatta l'accusa di falso in certificazione medica. Firmavano i documenti, firmavano i certificati così, senza visite. Non è possibile una roba del genere, vergognatevi, cazzo! Alessandro Milan, il forcone dell'informazione. Oh, è tornato il forcone. Allora, cari ascoltatori, mentre qui dilettiamo di cose, ci dilettiamo con cose tipo la politica, rimpasti di governo, eccetera, apriamo un attimo gli orizzonti, apriamo un attimo le nostre menti, perché a Losanna c'è stata una svolta davvero storica. Dopo 8 giorni di negoziati, dopo che per 35 anni Iran e Stati Uniti non si parlavano, è stato siglato un accordo che a buon titolo viene definito storico sul nucleare. Vi invito a leggere Alberto Negri, che oggi sarà anche nostro ospite alle 9:20. Nucleare, c'è l'intesa con l'Iran sul Sole 24 Ore a pagina 8, ma molti quotidiani, come detto, aprono con questa notizia. La svolta, scrive Negri, è storica davvero. Soprattutto per 80 milioni di iraniani che da 2 generazioni si sentono isolati, emarginati dalla comunità internazionale. Per loro il significato dell'intesa va ben oltre la politica. A Losanna, dopo una maratona diplomatica che ha superato perfino quella dei trattati firmati dopo la prima guerra mondiale, è stato raggiunto l'accordo sul nucleare iraniano. È la prima volta, più di 35 anni dalla clamorosa rottura delle relazioni diplomatiche, che Stati Uniti e Iran convergono su un accordo e si impegnano a rispettarlo. Ha prevalso il coraggio di Obama e per la prima volta il suo discorso è stato trasmesso in diretta dalla TV iraniana. Ma sono state decisive anche la determinazione del presidente iraniano, il moderato Rouhani, l'abilità del ministro degli esteri Zarif, la grande capacità di mediazione di tutti i componenti del 5+1, dalla Russia, la più volonterosa, alla Francia, forse la più riluttante, a concludere un'intesa che non è certo definitiva, ma stabilisce principi saldi per il disarmo nucleare iraniano e la revoca delle sanzioni a Teheran. Punti centrali della storica intesa, scrive Negri, sono la cancellazione graduale monitorata delle sanzioni, la riduzione dell'arricchimento dell'uranio, la riconversione degli impianti. Obama è stato esplicito: se arriveremo a un accordo finale, gli Stati Uniti, i nostri alleati e il mondo saranno più sicuri. Se l'Iran mentirà, il mondo lo saprà. I numeri, tra l'altro, riepilogati dal Sole: 6.104 sono le centrifughe consentite all'Iran, il taglio di 2/3 rispetto alle 19.000 oggi installate. La soglia di arricchimento dell'uranio sarà al 3,67%, non di più per i prossimi 15 anni. C'è per l'Iran anche per i prossimi 15 anni la moratoria a costruire nuovi impianti per l'arricchimento dell'uranio, e in base agli accordi ci saranno 25 anni di ispezioni continue in Iran. Ripeto, l'accordo è storico, tutti i giornali riepilogano quali sono i punti, esulta anche Federica Mogherini, alto rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera italiana. Sul Corriere dice: ci sono stati momenti molto delicati. In primo luogo, può costituire questo accordo un elemento di sicurezza per la regione. Se avessimo fallito, nulla poteva garantire che l'Iran non avrebbe ripreso le attività nucleari. E poi c'è la costruzione della fiducia. Abbiamo negoziato 8 giorni e 8 notti con 2 paesi, Iran e Stati Uniti, che non si sono parlati per 35 anni. Il mio ruolo ha una base legale, è scritto nella risoluzione del Consiglio di sicurezza, che anni fa di del via negoziati stabilisce che l'alto rappresentante facilita i negoziati. Sul piano politico l'Europa ha avuto un intenso e faticoso ruolo di regia. Ora, non è tutto chiaro, ovviamente. Andrà implementato, andrà seguito, ma l'accordo dopo 35 anni è un qualcosa che fa giustamente citare la storia o l'aggettivo storico. Certo, chi guarda con grande imbarazzo e preoccupazione, soprattutto Israele. Repubblica intervista Elie Wiesel, sopravvissuto all'olocausto, Nobel per la pace. Andrea Tarquini lo intervista a pagina 8 e dice: è un errore fare patti con chi minaccia di distruggere Israele. La mia reazione è negativa, dice Wiesel. Vedo il pericolo che l'Iran abbia un giorno armi nucleari. E a chi dice che anche Israele ha l'atomica risponde Elie Wiesel: Israele ha una sua storia, l'Iran ha un'altra storia. L'Iran non ha mai visto in faccia una volontà di distruggerlo. Così Elie Wiesel su Repubblica a pagina 8. Purtroppo invece dall'accordo storico l'altra notizia che proviene dall'estero è una notizia tragica, è l'ennesima strage di cristiani, e bisogna dire così, di cristiani, perché come scrive Vittorio Feltri, e io la penso così a tutti quelli che mi accusano, a tutti i miei detrattori, scrive Vittorio Feltri in prima pagina del giornale, c'è chi insiste a negare che i massacri avvengano nell'ambito di una guerra di religione, bisogna essere ciechi per non capire che qui si ammazza con diligente sistematicità soltanto chi crede in un Dio diverso da Allah. Questo Vittorio Feltri, prima pagina del giornale. Cosa è successo in Kenya? È successo che i miliziani islamici, i cosiddetti Shabab, che proliferano nella vicina Somalia, sono penetrati in territorio kenyota a Garissa, dove hanno sorpreso nel dormitorio dell'università oltre 800 studenti, tra loro molti ragazzi e ragazze. Il silenzio dell'alba rotto da assordanti raffiche di Kalashnikov. Reggo dalla cronaca di Alessandra Muglia a pagina 2 del Corriere della Sera. A impugnare i Kalashnikov un comando di Shabab con il volto coperto, giubbotti esplosivi che sparavano alla cieca su chiunque. I miliziani islamici somali hanno seminato il terrore per tutta la giornata nel campus dell'est del Kenya, 140 chilometri proprio dal poroso confine con la Somalia. Mentre dormivamo, dice un sopravvissuto, abbiamo sentito gli spari, erano circa le 5 del mattino, abbiamo cominciato a correre e scappare per tentare di salvarci. I terroristi si sono asserragliati in uno dei 4 dormitori del campus, sequestrando una 50ina di studenti cristiani, la maggior parte ragazze. Nella rivendicazione diffusa, un portavoce del gruppo terroristico ha riferito che i mujahideen hanno separato i musulmani dai non musulmani, poi hanno liberato i primi e hanno trattenuto i cristiani in ostaggio. Eccolo qui, trucidati ragazzi che non conoscevano i testi del Corano. Pagina 2 del Corriere della Sera. Su questo tema anche Avvenire, come è presumibile, oggi dedica grande spazio con il commento in prima pagina di Fulvio Scaglione. Contro fede e sapere sono da anni i nostri incubi quotidiani, amplificati dalla velocità con cui le informazioni e le immagini si diffondono sul pianeta. Per i cristiani l'ennesima Pasqua di passione, l'ennesima croce da portare, con la fede quale unico sostegno e consolazione. Tra tutti i più seri accreditati centri di studio confermano che l'accanimento contro i cristiani è tratto tipico degli ultimi decenni. Secondo il Pew Research Center di Washington, i cristiani sono discriminati in 139 paesi, cioè il 75% dei paesi ufficialmente riconosciuti. Eppure la mobilitazione internazionale intorno a questa realtà è quasi nulla. Così scrive Avvenire. Vediamo le questioni più prosaiche della politica italiana, e cioè ieri c'è stato Del Rio che ha giurato al Quirinale come successore di Lupi. diventa ministro alle infrastrutture. La analisi interessante è capire: è una promozione oppure è un promoveatur ut amoveatur, per dirla alla latina? Beh, secondo alcuni giornali, spesso critici del governo, Il Giornale, Il Fatto Quotidiano, Libero, è più la seconda, e cioè Renzi toglie Delrio dalla posizione molto molto delicata di sottosegretario alla presidenza del Consiglio. Sentite addirittura come la mette Marco Palombi sul Fatto Quotidiano. Gli uomini più vicini a Delrio la mettono così: certo, è andato a un ministero di peso, ma non è nel cuore del governo come essere a Palazzo Chigi. Insomma, hanno vinto gli altri. Gli altri sarebbero Luca Lotti, definito dal Fatto Quotidiano ora vero padrone del governo insieme a Renzi, e gli altri Maria Elena Boschi, ministro, e Antonella Manzione, capo dell'ufficio legislativo e renziana anche lei di ferro. Delrio in qualche modo risponde a queste critiche con qualche battuta concessa a Tommaso Ciriaco su Repubblica, pagina 11, mentre si taglia i capelli. Ciriaco va a trovarlo e dice: vado a fare qualcosa di più rilassante, dice, ma non sono così sicuro, a dire il vero. Certo, il sottosegretario era un ruolo impegnativo, per alcuni un vero e proprio massacro, e all'accusa di dire ma lei i rapporti con Renzi, ma quale freddezza, di cosa parlano, è tutta pura invenzione, di sana pianta, io e Matteo siamo davvero come fratelli. Insomma, promozione o rimozione o spostamento, ma rimozione proprio no, visto che va a un ministero chiave, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Certo, c'è anche il disagio, come scrive Andrea Garibaldi sul Corriere della Sera, di Quagliariello, che sperava di diventare lui ministro, a questo punto ministro dell'NCD agli affari regionali. Ma ci vuole una donna, ci vuole una donna, questo è il nuovo mantra. E Quagliariello dice: ma quando è andata via la Mogherini dal Ministero degli Esteri abbiamo messo Gentiloni, che mi pare sia un uomo, e noi ora dobbiamo sostituire Lupi, che è pure un uomo, con una donna. Vabbè, comunque, questa richiesta di una donna non la comprendo troppo, ma sono schermaglie politiche, schermaglie politiche. Oggi invece Il Sole 24 Ore, come ho detto in apertura di rassegna stampa, apre con una di quelle notizie che mettono di buon umore. La spesa pubblica che sale in un trimestre del 2,6% e la pressione fiscale che cresce e cresce. Buona Pasqua anche a te, Mauro Meazza. Buona Pasqua caro Alessandro, buona Pasqua a tutti. Sì, per la serie di notizie mani sul volante ti segnalerei proprio sempre in prima pagina IRPEF 425.000 contribuenti in meno, non per loro volontà però questa volta, cioè non si tratta di evasori ma è l'effetto della crisi, quindi diminuisce anche la platea del numero di contribuenti IRPEF, se vuoi aggiungerla appunto alle mani sul volante. Non andrebbe male nemmeno un altro titolo che è in prima pagina, poi trovi spiegato nelle pagine di Imprese e Territori, che ci sarebbero più di 6 miliardi per la banda ultralarga, sai, quella per i collegamenti con internet eccetera, e però 4 sono bloccati in un bisticcio di competenze e destinazioni tra ministeri diversi, quindi ci vuole qualche mese ad andar bene. Non so se con questo ho esaurito le notizie mani sul volante. Ti dico però, guarda, c'è una buona notizia, sai che c'è stato un po' un pasticcetto dei numeri sul lavoro, che prima ci hanno detto che salivano gli occupati, poi che invece no, è arrivata l'Istat a dire no, scendono. Allora il Ministero, devo dire, dietro richiesta del Sole 24 Ore, ha detto va bene, allora da aprile vi comunichiamo mensilmente i dati effettivamente di occupati e non occupati, contratti attivati e contratti cessati, quindi una trasparenza che arriva, questo non per mediare un po', così per limitare l'effetto mani sul volante di prima. Tu vai in vacanza? Sì, settimana prossima farò il debosciatissimo, sarò in vacanza. Debosciatissimo, anche perché prendo da Sole 24 Ore che i dati del settore non sono diciamo brillanti per questa vacanza, per questo periodo pasquale. Pare che l'85% degli italiani invece faccia una scelta diversa dalla tua, cioè in vacanza. Ma io lo faccio per far girare l'economia, vedi, capisci? Fai girare l'economia, speriamo che gli ascoltatori non dicano altre cose, ma il assolutamente, siamo felici per sono felicissimi, quindi ti auguriamo una serena vacanza, magari quando torni il derby tra le nostre due squadre lo faremo in campo neutro, non so, ad Hanoi piuttosto che a Pechino, a Shanghai. Sì, no, a Pechino non è campo neutro, Pechino sarebbe casa vostra. Effettivamente. Volevo già comunque un piccolo vantaggio. Adesso cominciamo subito ad approfittare. Ti posso anche dire, scusami, mi sono dimenticato, intanto che sei in vacanza, pensa anche questo, le addizionali dell'IRPEF, sai quel tocchettino che ci mettono sopra le regioni? Ecco, sono cresciute di quasi 4 punti percentuali. Ti ringrazio, nelle ultime... è proprio il pensiero che credevo di avere. Questo, sì, per svelenire un po' il clima anche, te lo dico, e per darti, come dire, un sereno augurio. Intanto che vai in vacanza, leggi anche How to Spend It, che è il nostro mensile che oggi trovi in edicola con il Sole 24 Ore. E tutto ciò premesso, buona Pasqua. Grazie. Ma anche, e come sempre, traffico! Per me, la rassegna stampa di Alessandro Milan è una cagata pazzesca! Questo vi giuro, io me la metto come suoneria sul telefonino. Sul telefonino come suoneria, è geniale. Grazie caro ascoltatore. Allora, le intercettazioni finiscono ancora nel mirino. Perché intanto per questo generale della Guardia di Finanza Michele Adinolfi, che è stato intercettato nell'ambito della vicenda di Ischia mentre parlava al telefono con il Premier Renzi e il sottosegretario Luca Lotti. Oggi Libero lo intervista, Giacomo Amadore intervista il generale Adinolfi. Ecco cosa ho detto nelle telefonate con Renzi e Lotti. Intanto dice: incredibile questa vicenda, assurda, sono stato accusato di corruzione perché sarei stato pagato dai signori di questa cooperativa, la CPL. Il mio interrogatorio è durato 5 minuti dal PM Woodcock, gli ho detto che io non conoscevo nessuno e lui ha chiesto di fatto l'archiviazione. Sì, ma di cosa ha parlato lei con Renzi? Mi risulta, dice Amadori, che in quelle telefonate lei esprimesse il suo desiderio di andare a fare il direttore dei servizi segreti militari e non c'è riuscito. È vero, risponde Adinolfi, è questo il dato. Nel frattempo sono stato sputtanato. Potevo essere chiamato e sentito in altra veste, quella di testimone, ma poi per chiedermi cosa, visto che già lo sapevano che neanche li conoscevo questi qui. Ritornando alla vicenda delle telefonate con Renzi e Lotti, immagino che lei, come tutti, avesse legittime ambizioni e gliele avesse comunicate. Ma non c'è dubbio, risponde il generale, in maniera normale. Però non ho ottenuto quel posto perché io purtroppo vengo visto come il diavolo. Ma il diavolo di che poi? Nell'ultima vicenda anche i PM avevano capito che io non conoscevo gli uomini di questa cooperativa. Allora mi chiedo, c'era bisogno di un avviso di garanzia per sentirmi? Serviva un avviso di garanzia per mandare queste telefonate in giro e darmi in pasto ai giornali? E poi dice: abbiamo parlato con Renzi, l'ho conosciuto da quando era a Firenze, io sono stato a Firenze, prima non lo conoscevo, abbiamo parlato anche del Milan, abbiamo parlato di cose così. Le intercettazioni però finiscono anche sulle prime pagine dei giornali perché due giorni fa a Porta l'editorialista della Stampa, Marcello Sorgi, che è stato direttore della Stampa, ha raccontato un particolare inquietante. Beh, perché è veramente inquietante. Lo Stato mi passò le intercettazioni del ministro Mastella. Era il 2008, un funzionario della prefettura, senza che io chiedessi nulla, si presentò un giorno con una chiavetta per PC dicendo: ecco qua tutte le intercettazioni del caso Mastella. Sorgi ricorda l'episodio, come scrive Libero, dicendo: ero sconcertato che mentre cadeva il governo Prodi un funzionario dello Stato si apprestava in modo solerte, senza che ne avesse alcun dovere istituzionale, a fornire in anteprima i contenuti di intercettazione, alcune delle quali, in quanto riferite a Mastella ministro, la Corte Costituzionale ha ritenuto non utilizzabili ai fini processuali. Anche Prodi viene raccolto il suo parere su questa vicenda dal Giorno a pagina 3. Le intercettazioni funzionano come un orologio svizzero, vengono diffuse alla bisogna. Così scandisce le parole Romano Prodi dopo la rivelazione shock dell'editorialista della Stampa Sorgi. quelle parole riaprono un capitolo oscuro della storia italiana. Prodi dice: le intercettazioni usate un giorno per far saltare un governo, un giorno per creare una carriera, un giorno per distruggerla, un giorno per demolire un'alleanza, un giorno per costruirla. Benvenuto in Italia, è così da un po' di anni e si sa. Vabbè, di che dobbiamo parlare? Della lite tra Jovanotti, Fedez e Salvini? Ma anche no. Vi segnalo due cose, due o tre cose per concludere. La prima è questa: la storia di Guy Birenbaum, francese, opinionista molto quotato, che a 53 anni è entrato in depressione da uso di social network, Twitter, Facebook, interazioni, agenzie. Racconta della sua vita iperconnessa che lo ha portato alla depressione. Stefano Montefiori, a pagina 27 del Corriere della Sera, è interessante il racconto di Guy Birenbaum, 53 anni, opinionista appunto in Francia, racconta della sua vita in cui è passata a scrivere da 60-70 tweet al giorno, a seguire tutti i follower, impazzito per le segnalazioni, i contatti, le connessioni, e poi finito per questo in depressione. Mentre vi segnalo lo straordinario nuova iniziativa del presidente a Nord Corea, presidente Kim Jong-un, racconta il Fatto Quotidiano che Kim Jong-un ha ripristinato le truppe del piacere. Sono ragazzine dai 14 ai 20 anni che servono a, come dire, ristorare le fatiche del caro leader. Le olgettine del dittatore comunista, questo è il titolo del Fatto Quotidiano. Vabbè, c'è da dire che siamo in conclusione, siamo alla carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali, non ci volevo credere, lo faccio vedere anche in diretta su Periscope. È una storia di una pagina sul secolo XIX di una gallina, la gallina Laila, che il giorno dopo l'eclissi di sole ha fatto le uova con il sole impresso sul guscio, e tutti a chiedersi perché, come avrà fatto. Il titolo: l'eclissi ipnotizza la gallina. No, ma chi se ne frega.